7:30 minuti primi, questo è pane, burro, rock and roll. If you have a problem, avete problemi? No one else can help. And if you can find them, maybe you can hire. Eccolo tornato. Fino alle 9 del mattino, bentornati al nostro numero di SMS. Qui c'è l'Ariele, augurarvi una buona giornata. 335-100-7777. Puggio, Andrea, Leon, il Metal Chef, Lugo di Romagna. Un saluto a tutto Lugo di Romagna, capitanata da Claude. Viva Rogna e Frigo, abbasso Topo Gigio. Bentornato Tino. Un abbraccio a Lam che ha partecipato al Capodanno di Firenze insieme a noi di Rock FM. Un saluto a Filippo, ancora a Firenze, come non si firma, sempre a guidare il pullman. Un'altra Vilma a Firenze, Oscar che non ha mica voglia di tornare in miniera. Buongiorno, buonanotte invece a questo che smonta e va a dormire adesso. Auguri, buon 2008 a tutti. Siamo tornati. Oh, veramente Spadino, Freaker, siamo qui che ci spremiamo. Non è facile la ripresa del 2008, eh? Stavo pensando magari di chiedervi chi di voi ha fatto il Capodanno rock, perché poi non si sa bene cos'è. Potrebbe essere una domanda, ma vediamo. Intanto ci partono i Genesis, così, tanto per farci sempre riconoscere, no? It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-da-dum-da-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been a Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them moving, they sharp. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. I know what I Like, Genesis. Lo so io che vi piace a quest'ora della giornata la buona musica di Rock FM. Mercoledì 2 gennaio, qui fa bello fresco negli studi di Rock FM, eh? Per mantenerci belli giovani, abbiamo la temperatura bella bassa. Allora, niente ragazzi, siamo nella palla totale per decidere di che trattare. Guardate che non è facile riprendere l'anno così, perché tutti gli altri parlano delle stesse cose, noi, ci sapete, ci teniamo a essere sempre rock, essere sempre contro. Non ci va di chiedervi del Capodanno, capito? Perché ci sembra un po' troppo... E allora pensavamo, sai che c'è? Riprendiamo con le vecchie sane abitudini di pane, burro e rock and roll. Da quanto tempo non ci spariamo un ritardatario ritardato? La scusa buona, fresca di giornata per arrivare in ritardo in ufficio senza grossi problemi? Ah, erano anni che non si sentiva. E allora spariamocela, via. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Dottore, buongiorno dottore, le chiedo scusa per il ritardo, ma mi creda, a volte è come se ci fosse una congiura astrale contro di me. Io non voglio esagerare, ma anche oggi sarei arrivato puntuale se il mio cane, che solitamente è docile, non avesse stamattina deciso, chissà perché, di mordermi i calzoni. Me li ha distrutti tutti, completamente. Allora ho cercato di rimediare, naturalmente ne ho cercati di altri, e gli unici che potevo utilizzare erano appena stati lavati e messi sullo stendino da mia moglie. Io ho preso il ferro da stiro, ma sa, non sono pratico nei lavori domestici, allora con il ferro da stiro li ho bruciati. Quindi ho tentato un'ultima risorsa, sono uscito dalla merciaia sotto casa per comprare un altro paio di calzoni, infatti, ecco, ma mi sono accorto che avevo indossato il tanga di mia moglie, che mi dava un po' fastidio qua nella zona pubblica, sa, sì, adesso lei mi ha capito, no? E così sono dovuto tornare a casa a cambiarmi. Il ritardatario ritardato, non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Sarei potuto venire col tanga, no? Guardi, proprio mi dispiace, ma per una questione anche di, come dire, di vergogna, di imbarazzo personale, insomma, anche per una questione di dignità personale, insomma. Questo è mobbing, direttore, questo è mobbing. Till you spend half your life vabbè, sarà pure un nuovo anno da passare con pane, burro e rock and roll, ma sarà pur nato qualcuno quest'oggi. Sì, facciamogli questi auguri. Giochiamoci la carta degli auguri. Giochiamocela al volo, grazie al nostro regista Spadino, al quale hanno rinnovato il contratto anche lui. Complimenti. Purtroppo. Complimenti. Grazie per la base. Oh, che bel compleanno. Salutiamo anche la redazione. Certo. Auguri anche alle ragazze e ai ragazzi. Ciao bello, a tutti. Alla numerosa redazione. 1920, era il 2 gennaio quando nasceva Isaac Asimov. Esatto. Sono sempre stato affascinato da Asimov. Un nome russo per un grande americano. Le certo, piace l'iperbole? Certo. Assolutamente sì. Biochimico, scrittore di fantascienza e divulgatore scientifico. Proseguiamo con un suo collega. Nasceva nel 1952 il comico italiano Paolo Hendel. Oh, saluti, auguri a Paolo. Paolo, come stai? Ti trovo bene. Non può sentirla, maestra, è la radio. Ah, no? Cioè, forse la sta sentendo, ma non è detto. Ah, ma io lo vedo, eccolo lo là. Vede? Paolo. Sì. Ciao, Paolino. Ciao, tanti auguri, auguroni. Quante vacanze passate con Paolo Hendel. Complimentoni, come dice lui, complimentoni. Ok, proseguiamo con il nascituro Todd Haynes, regista e sceneggiatore statunitense che nasceva il 2 gennaio del 1961. Lo ricordiamo in Velvet Goldmine, in Lontano dal Paradiso, e nel recentissimo Io non sono qui, I'm not there, il film su Bob Dylan. Ah, benissimo, benissimo. E adesso vorrei godermi l'ultima, ma la prima in graduatoria, sì. È vero? L'ultima nell'ordine, ma la prima in graduatoria. Sento puzza della classica porno diva statunitense. Sarà infatti, forse. Eccola lì. Infatti, tanti auguri a Flower. Sì. Fiore Tucci. Un'italo-americana, dice, sicuramente. La conosce? Certo, questo. Naturalmente, a tutti i suoi bootleg, ho tutti i suoi video nella mia porno videografia. Quanto è grande la sua porno videografia. Nasceva nel 1981 la bella Tucci Fiore. Bella e brava. Ciao, brava. Un fiore di porno diva. Piaciuta la metafora fiore, molto, porno diva. Molto, complimenti. Grazie. Questo 2008 le fa proprio bene. Ringrazio. E me, che c'è? Souls accused of hit and run, tire tracks all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right, so hard to get through to you. Down Traffic, Jimi Hendrix, la carica di pane, burro e rock and roll nella mattina di Rock FM. Siamo tornati, eccoci qua. Mi ha letto nel pensiero l'amico che ha scritto questo SMS: ho ancora voglia di tatuarmi una Bete Rock, cosa faccio? Procedo? No, fermati, aspetta ancora qualche giorno che dovrebbe passare. Però mi hai letto nel pensiero, perché proprio in quell'istante stavo pensando, sapete cosa mi manca oggi? Buon Natale però rock. Cioè, è finito Natale, andate, ce lo siamo giocati. Ma io vorrei sentirmi la canzone di Natale di Pane, Burro e Rock and Roll. Come fare? Beh, finita la trasmissione vado di là e me l'ascolto. È ancora scaricabile, downloadabile sul sito punkrockers.it. No, trasmetterla mi sembra veramente troppo. Cioè già secondo me abbiamo tirato un po' la corda con i radioascoltatori a Natale, non esageriamo Spadino, eh. Anche Freak vorrebbe metterla, no, ve la faccio sentire dopo ragazzi, quando è finita la trasmissione andiamo di là, eh. Va bene, tra le varie novità di questa ripresa di Pane, Burro e Rock and Roll, inizio a mettere le mani avanti perché devo abituarvi a una nuova casistica di rubriche di Pane, Burro e Rock and Roll. Stiamo lavorando insieme alla redazione sulla possibilità di essere rockstar in una società di precariato. Ragazzi, c'è il lampione crepuscolare che dondoleggia in maniera che c'è un terremoto o è il vento. Speriamo il vento, se no mi preoccupo. Intanto saluto anche al lampione crepuscolare che non avevo ancora salutato quest'oggi. Ciao caro, sempre lì bello presente. Dicevo, uno speciale essere rockstar ma in precariato che faremo recitare, faremo interpretare sempre al maestro Roberto Fricantoni, e all'interno di questa nuova rubrica del precariato ci saranno parecchi interventi. Ne abbiamo uno, lo facciamo partire dopo. Prima ci ascoltiamo i Dokken, Spadino, guarda qua il capo sei tu, decidi tu. Allora ci gustiamo i Dokken di Walk Away. E poi una delle prime novità, una delle tante novità di Pane, Burro e Rock and Roll. Abbiamo anche una nuova campagna. Ah, sì. Ricordate la campagna della cartolina, il Natale Rock? Ce n'è una nuova. La sentirete. It wasn't mine to keep, but the love we shared. Just walk away. You won't be there. Dokken, The Walk Away. Andate, andate ragazzi, via. Pane, burro e rock and roll, puntata 152. Allora, novità, novità dalla ripresa. Ci occuperemo della possibilità di arrotondare lo stipendio. Rubrica che interessa particolarmente noi, in prima persona. E non si sa mai su questa strada del rock and roll. Insomma, bisogna arrotondare, no? Il tutto nasce, racconto un dietro le quinte, da quando mesi e mesi fa noi della redazione di Pane, Burro e Rock and Roll abbiamo fatto una scoperta fondamentale sulla carriera di Roberto Fricantoni, nostro collega che quotidianamente ci tiene compagnia. Tra le varie cose che ci nasconde Roberto Fricantoni, e ancora tutto non sappiamo, caro Frick, abbiamo scoperto che ha fatto il babysitter a DJ Francesco. Sì, il DJ Francesco, da piccolino, Fricantoni, gli ha fatto da babysitter. Che voi ci crediate o meno, è così. Non è quando le cose me le racconta Frick con quegli occhi lì, ci credo. E quindi una nuova rubrica di Pane, Burro e Rock and Roll speciale. Rockstar in precariato, Roberto Fricantoni fa il babysitter. Ci sembrava carino chiusare così, no? Vabbè, nuova rubrica. Buongiorno signor Frick. Buongiorno dottore. Le lascio Sofia, mi raccomando. Ma stia tranquillo, sono un babysitter diplomato. Sofia, tesoro, vieni qui, dai. Sofia, vieni che ti racconto una bella favola. Una favola? Sì, sì, allora, devi sapere. C'erano una volta due topi di nome Frigo e Rogna. No, no, no, Frigo, guarda che non devi. Scusa, innanzitutto è Frick e poi... Dai, ascoltami, fai silenzio, Trudina. Mai interrompere Frick. Dicevo appunto che questi due topi di nome Frigo e Rogna vivevano in una grande... No, no, Frick, davvero, guarda che non devi. Allora, insomma... No, senti, allora, facciamo così. Te la racconto io una storia. Ci sono un'anziana e una bambina in un salotto che non sanno come passare il tempo. Così l'anziano propone alla bimba due birrette. La bambina si alza e va in cucina a prenderle dal frigo. Ma non era quella dove si mettevano a fumare droghe leggere? Ah, non c'è più la gioventù di una volta. Turns blue. Buonasera. Buonasera, sono Ariel da Rock FM. Sì? Mi scusi, ascolta la radio? No. Non è solita, proprio non l'ascolta mai? No, qui nell'ambito lavorativo no. Ah, scusi, sta lavorando? Sì, è un negozio. Ah, mi scusi, abbiamo fatto un numero a caso perché abbiamo un po' gli ascolti bassi. Stiamo cercando di chiedere alla gente se gli va di ascoltarci alla radio. No, siamo a lavorare. Ah. Grazie, buongiorno. Ho capito, siamo Radio Rock FM comunque, grazie a lei.